24 mattino. Sono le 8 e 18 minuti, ben ritrovati a 24 mattino, 349-238-6666 per i vostri messaggi, parliamo un po' di economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, eccoci qua. Sì, buongiorno Alessandro. Buongiorno. Buongiorno. Allora. Ce lo meritiamo di andare in vacanza, secondo te, prima o poi? Che domanda, direi di sì, io farei vacanza tutto l'anno. Ma dai, sei affezionatissimo a questo microfono come me. Allora, tra poco è Pasqua e c'è questo tema che ritorna anche a Natale, insomma era così, dice ma come la crisi a Pasqua? Tutto esaurito. Esatto, noi in realtà abbiamo scelto questo tema anche perché abbiamo avuto proprio l'obiettivo di alleggerire un po' il clima, di parlare di vacanza, perché a dispetto della crisi molte famiglie, magari cambiando un po' le possibili destinazioni, quelle che avevano in mente, quelle che avevano sognato magari qualche mese fa, così hanno deciso lo stesso di dedicarsi qualche giornata di vacanza in Pasqua. Vi do qualche nota, anzi vi leggo il titolo di un articolo comparso sulle Sole 24 Ore due giorni fa: Pasqua verso il tutto esaurito nelle agenzie, crescita del 30% dei preventivi, parliamo di un più 30% rispetto all'anno scorso. Per le prossime ferie il 26% degli italiani ha in programma almeno un weekend. Certo, bisognerà vedere se le richieste poi di preventivo si trasformeranno in prenotazioni concrete, però questo è già un segnale indicativo. E allora noi abbiamo voluto invitare gli operatori del settore per focalizzare l'attenzione intanto sul canale tradizionale con il quale si può organizzare la vacanza, quindi quello che magari è preferito da nuclei familiari normali, mamma, papà e due bambini, per capire effettivamente se questa tendenza è reale o se, come al solito, funziona come la media di Trilussa: c'è chi opera molto bene e ha un sacco di lavoro in questo momento e chi invece fa poco. Allora saluto e ringrazio di essere con noi il professor Roberto Ruozzi, presidente del Touring Club Italiano, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno. Buongiorno ancora, non ho capito bene, vorrei capirlo dalla regia, se abbiamo anche Hotel Plan Turisanda. Non ce l'abbiamo ancora, stamattina il nostro ospite è scomparso, ma in ogni caso l'osservatorio Touring Club Italiano è sicuramente indicativo. Tra l'altro abbiamo scoperto anche un'altra cosa, noi che non tanto a Soldi e Dintorni quanto prevalentemente a Salvadanaio, abbiamo scoperto che, e questo è un dato che è emerso dalla BIT 2009, dalla Borsa Internazionale del Turismo, che si è conclusa il 22 febbraio scorso, piuttosto che stare a casa gli italiani preferiscono pagare la vacanza a rate, c'è un trend in aumento del 3% o ridurre la durata del viaggio. Alessandro ha trovato anche un'altra inchiestina sul tema che è comparsa questa mattina sul giornale, insomma, vacanze di Pasqua della crisi, insomma. No, leggila tu che vacanza di Pasqua, le prenotazioni fanno boom. Insomma, quindi confermiamo tutto questo. Professor Ruozzi, allora, ci commenta un po' questa tendenza, è vera? Qual è il vostro osservatorio? Come state messi a prenotazioni per quello che riguarda le vacanze di Pasqua? Ma dunque, credo che la notizia che ha dato solo 24 ore sia esatta e va interpretata tuttavia, nel senso che ci sono in quella notizia degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. L'aspetto positivo è che, come era peraltro noto, il viaggio, il desiderio del viaggio ormai rientra fra le priorità alte della scala dei consumi individuale, quindi diciamo, nonostante la crisi, nonostante tutto il pessimismo che c'è in giro, la gente desidera viaggiare e antepone le spese del viaggio ad altre spese che viceversa saranno probabilmente rinviate nel corso del tempo. Quindi questo conferma peraltro che i consumi non sono così mal ridotti come li si vuole far apparire. In Francia nel mese di gennaio sono già ripresi, quindi probabilmente riprenderanno anche da noi. Quindi la nota positiva è che nonostante tutto la gente desidera viaggiare e fare un po' di vacanza. E questo un po' per, come dire, sdrammatizzare anche la situazione di crisi, però chiaramente noi parliamo di questa crisi, lo facciamo sempre malvolentieri, però dobbiamo prenderne atto e parlarne. Parlarne, ecco, no, mi stavo chiedendo. È discusso che ci sia, è discusso che esatto. Ci sia, ma su questo fatto non discute nessuno, ma ogni tanto qualche segnale positivo che emerge come questo andrebbe sottolineato, perché più pessimisti siamo e peggio andranno le cose. È un cane che si morde la coda, come dico spesso. No, io in realtà avevo fatto questa premessa solamente per arrivare a chiederle voi come vi siete preparati anche ad affrontare questo momento, perché anche a Natale era un po' successa la stessa cosa, no? Si era gridato tanto al lupo, poi avevamo scoperto che comunque anche per quello che riguardava i viaggi la tendenza era stata piuttosto buona, così come per i consumi in generale. Quindi, alla luce del fatto che già sapevamo che il 2009 sarebbe iniziato molto male, avevate così in mente qualche strategia particolare, qualche proposta particolare da fare ai vostri associati, perché il Turing lavora in un determinato modo, ma chiaramente anche ai vostri soci, a qualcuno dei vostri soci la condizione economica sarà cambiata, per cui? Sì, no, allora noi intanto ci occupiamo essenzialmente del turismo in Italia, mentre le notizie che dà il Sole 24 Ore riguardano turismo alle Maldive, in Egitto, in mete più o meno esotiche, e questo è l'aspetto negativo della questione, se vogliamo, cioè che gli italiani hanno ripreso a viaggiare ma trascurano il loro paese, privilegiando mete esotiche che sono perfettamente belle, legittime, eccetera, eccetera, ma dimostrano una volta di più la scarsa competitività del sistema turistico italiano, è quello che riesce ad attrarre non solo gli stranieri ma neanche gli italiani. No, la interrompo un attimo solo per confermarle che anche quello che sostiene il giornale questa mattina: gli italiani preferiscono l'estero, Egitto USA, Maldive in testa sulla scia degli sconti delle compagnie aeree. Prego. Non credo che sia soltanto questo discorso di compagnie aeree, questo di competitività generale. Noi abbiamo un rapporto prezzo-qualità di servizi turistici sballato e poco competitivo, come dimostrano peraltro tutte le ricerche internazionali. Quindi questa è la leva su cui dobbiamo puntare se vogliamo che il nostro sistema turistico riprenda un po' di fiato. Ecco, tra l'altro nel frattempo mi stanno comunicando che abbiamo pescato anche il secondo ospite con il quale avremmo voluto chiacchierare di questo argomento e gli devo dedicare purtroppo non più di 2 minuti. Buongiorno a Marco Cisini, direttore Tour Operating Hotel Plan Italia, di cui fa parte Turisanda. Dottor Cisini, buongiorno. Buongiorno. Allora, no, noi stavamo così un po' cercando di capire qual è l'orientamento anche dei tour operator in questo momento. Touring Club ovviamente ci spiegava la sua attitudine, che è quella di promuovere anche il turismo italiano, e stavamo commentando però questo aspetto relativo al fatto che nonostante la crisi in realtà si tende a scegliere mete esotiche, lontane e quindi teoricamente anche molto costose, come Egitto, Stati Uniti e Maldive addirittura. Voi come state aggredendo la crisi come tour operator? Cosa proponete in questo momento ad una famiglia media, magari a cui la condizione economica negli ultimi mesi è cambiata, ma che vuole comunque godersi una vacanza in Pasqua? Ma comunque ogni crisi crea inevitabilmente dei vantaggi e degli svantaggi. Per l'utente finale indubbiamente il vantaggio si tramuta in un'aggressività di prezzo che gli permette inevitabilmente di avere delle chance che magari in altri momenti non avrebbe ottenuto. Dall'altra, l'impatto che hanno questo andare incontro alla crisi purtroppo ha impatto sulle aziende in maniera pesante. Ciò non toglie che effettivamente la domanda in questo momento per quanto riguarda i viaggi è abbastanza soddisfacente, anche se lontana purtroppo dalle realtà dei mesi precedenti, e purtroppo questo è una realtà con la quale anche noi ci dobbiamo confrontare, però riteniamo che effettivamente il viaggio resti qualcosa al quale le persone stiano facendo fatica a rinunciare. Questo evidentemente è anche una reazione psicologica ad un momento di grande difficoltà che le persone stanno vivendo. Infatti, che è quello che dicevamo in apertura. Io purtroppo devo chiudere perché Soldi e Dintorni ha poco spazio. Andiamo al concreto, dottor Cisini, in 30 secondi, anzi 10, con un'offerta. Qual è stata la più gettonata da parte delle famiglie che si sono rivolte a voi? Ci fa anche una cifra? Beh, direi di sì. Allora, noi abbiamo messo a disposizione delle proposte per le Seychelles, che essendo un paradiso abbastanza ambito, sono state gettonate moltissimo, anche perché le abbiamo messe a disposizione del mercato a una cifra di poco inferiore ai 2.000 euro, che per quanto possa suonare ancora una cifra importante, effettivamente, per questa destinazione molto competitiva. La ringrazio, dottor Cisini, grazie anche al professor Roberto Ruozzi del Touring Club Italiano per essere stati con noi. Alessandro, io concluso. A Salvadanaio, ieri la Banca Centrale Europea ha tagliato i tassi di interesse, oggi faremo un punto della situazione, conseguenze per investitori e anche per chi ha i mutui, naturalmente. Le 8:33 minuti, uno sguardo alle ultime notizie. La Banca Centrale Europea ha abbassato di 0,5 punto il tasso di interesse, portandolo all'1,5%, a livelli mai visti prima. E in Italia il ministro dell'Economia Tremonti dice il 2009 sarà peggio del 2008. Ieri nuova giornata nera per le borse. L'Italia boicotterà la conferenza dell'ONU denominata Durban 2 sul razzismo, prevista a Ginevra ad aprile. Motivo della decisione: alcune frasi contenute nella bozza di dichiarazione finale, in cui si legge che Israele nei territori palestinesi rappresenta una violazione dei diritti umani, una forma contemporanea di apartheid e una minaccia per la pace internazionale e la sicurezza. Clamorosa decisione contro il bullismo in una scuola elementare a Genova. Un bambino di 8 anni ha puntato un taglierino a una compagna e i genitori degli altri alunni hanno ritirato i propri figli dalla scuola. Non ci sentiamo tutelati, hanno detto, ma la preside parla di protesta esagerata. E infine Michael Jackson tornerà sul palco a luglio con una serie di 10 concerti. Il re del pop, che è assente da anni dalla scena musicale, ha venduto 750 milioni di dischi, lo ha annunciato a Londra. Sarà la mia chiamata finale sul palco, ha detto. Ed è il momento del commento del direttore del Sole 24 Ore, che oggi ci parla di mutui. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Diventano finalmente operative le norme che ponevano un tetto al 4% per i mutui a tasso variabile. Chi potrà beneficiare di questo aiuto di Stato riceverà un accredito pari alla differenza fra le rate versate nel 2009 e quelle ricalcolate sulla base del tetto. Nel frattempo, con la riduzione dei tassi di interesse, la situazione è molto cambiata. Ieri il tasso interbancario Euribor a un mese ha toccato l'1,45%, soltanto 5 mesi fa eravamo intorno al 5%. È possibile, lo ha lasciato intendere ieri lo stesso presidente della Banca Centrale Europea, Trichet, che vi siano altri ribassi. Ci auguriamo che nel momento in cui le banche riceveranno una mano dallo Stato siano più attente non solo alle imprese ma anche alle famiglie. La scelta oggi fra tasso variabile, che appare più conveniente e fisso, che le banche faticano a concedere, è tutt'altro che semplice. I clienti andrebbero aiutati di più, con costi non punitivi e con consigli meno interessati. La fiducia si ricostruisce anche così. Buona giornata. Grazie, buona giornata. Ferruccio De Bortoli, ci ritroveremo ovviamente lunedì mattina alla stessa ora. Come abbiamo anticipato, c'è polemica per il finanziamento di 1,5 milioni di euro del Ministero della Cultura a un film che si intitola La Prima Linea, è in fase di realizzazione ed è tratto dall'autobiografia intitolata Una vita in prima linea di Sergio Segio, che sapete è un passato da terrorista, accusato e condannato a vari ergastoli, tra l'altro condannato anche all'ergastolo per l'uccisione del giudice Emilio Alessandrini. Io saluto il figlio del giudice Alessandrini, Marco Alessandrini, avvocato Alessandrini, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, era la mattina del 29 gennaio 1979, tra poco ci arriveremo, ma vorrei partire dalla stretta cronaca, se si può dire, cioè la protesta, lo sconcerto. Ieri anche il procuratore di Milano Armando Spataro ha detto è inopportuno questo finanziamento. Lei come lo giudica? Ma io innanzitutto ringrazio della possibilità di esprimere da questa tribuna sostanzialmente il punto di vista di assoluto sconcerto che un figlio, una vittima del terrorismo come me, ha avvertito in questa situazione. La vicenda è presto detta, e cioè il Ministero della Cultura ha ritenuto di erogare un finanziamento pubblico di 1,5 milioni di euro, come appena ricordato, per la realizzazione di un film tratto dal libro autobiografico di Sergio Segio. Ora, ovviamente il problema non è quello che un ex terrorista scriva un libro o che un regista voglia trarne un film o un produttore voglia finanziarlo, perché in Italia, grazie a Dio, esiste l'articolo 21 della Costituzione e c'è la libertà di manifestazione del pensiero. Ciò che io invece ritengo sia problematico e dal mio punto di vista inaccettabile è che lo Stato sovvenzioni un film di questo tipo, fornendogli in qualche modo la parvenza di opera di valore culturale. Lo Stato in difesa del quale gente come mio padre è stata assassinata, a distanza di anni, di 30 anni, ritiene così normale appunto erogare soldi pubblici per realizzare un film di questo tipo. Io credo che tutto questo, come dire, lasci sconcertati. Senta, ieri il Ministero dei Beni Culturali ha emanato un comunicato a dire sostanzialmente che la copia campione del film sarà visionata al fine di stabilire sostanzialmente la conformità al progetto approvato, cioè qualsiasi modifica farà ritirare i fondi. E poi la produzione non potrà utilizzare nella fase di promozione del film nessuno dei protagonisti reali della vicenda, cioè traduco, immagino che Sergio Segio o Susanna Ronconi non potranno andare a presentare il film. Questo le basta in qualche modo oppure no? Ma io credo che, come dire, qui conta in qualche modo il fatto che a rappresentare Segio e la Ronconi ci saranno due attori celebri, amatissimi dal grande pubblico, quali Scamarcio e La Vittoria Mezzogiorno. Sì, Giovanna Mezzogiorno. Giovanna Mezzogiorno. E questo mi fa pensare che il pubblico, sostanzialmente il grande pubblico cinematografico, non, in qualche modo non pensi proprio alla faccia reale di questi protagonisti, bensì si concentrerà ovviamente sulla loro versione filmica, in qualche modo. E il rischio, insomma, in qualche modo, del terrorista giovane, figo e carino, per usare le espressioni o quasi di Benedetta Tobagi, io temo che sarà percepito come tale, appunto, dall'opinione pubblica. E questo mi fa riflettere perché io penso all'attualità, o comunque a quanto accade in Italia, cioè al fatto che, ad esempio, ogni tanto dinanzi alle carceri di massima sicurezza in cui sono rinchiusi brigatisti di seconda generazione, per intenderci quelli degli amici di Biagi d'Antona, ci sono dei cortei di solidarietà giovanili in cui ci sono oltretutto molti ragazzi. Questo perché credo che esista un, sia pure piccolo, comunque un modo di pensiero che ritiene che, insomma, questi terroristi in qualche modo fossero dei giovani rivoluzionari che volevano cambiare questa società. C'è il rischio che venga veicolato questo messaggio utilizzando, come ha detto appunto Benedetta Tobagi, la figlia di Walter Tobagi, usando due bellissime persone, due attori molto belli, insomma, Riccardo Scamarcio e Giovanna Mezzogiorno, inutile, tutti li figuriamo come volto. Senta, io, perché forse è il caso anche di sbattere in faccia agli ascoltatori quello che fu l'orrore, insomma, anche di quell'uccisione. Il 29 gennaio del 1979, dunque 30 anni fa, suo padre fu ucciso da un comando, al capo della quale c'era appunto Sergio Seggio, e lei ne ha un ricordo nitido, perché suo padre la accompagnò come tutti i giorni alle scuole elementari poco prima di essere ucciso, è così? Sì, questo è quanto, nel senso che il 29 gennaio di 30 anni fa, era un lunedì, come spessissimo capitava, mio padre mi accompagnò a scuola a bordo della Renault Arancione, e poi, dopo avermi lasciato dinanzi all'ingresso di via Colletta, purtroppo lì a qualche centinaio di metri andò incontro in qualche modo al suo destino, e io, ahimè, ho dei ricordi di quella giornata, di quella immediatamente successiva, del funerale, insomma, qualcosa che mi porto inevitabilmente dentro. Chi le disse, non vorrei entrare troppo, voglio dire, nei dettagli, ma so che sono dettagli pubblici che lei ha qualche modo raccontato anche nella sua esperienza, chi l'avvisò, insomma, finita scuola, cioè come tutti i bambini si aspettano, non so, qualcuno che li venga a prendere alla scuola elementare, chi le disse qualcosa e cosa le disse? Accidenti, qui andiamo sul pesante, ma la notizia mi venne data, ritornato a casa, mi venne data da mia madre con la così massima dolcezza possibile, per quanto è possibile dare dolcemente un messaggio del genere. Ricordo anche la presenza dei miei nonni, e poi un pomeriggio con la casa piena di gente, io nascosto nella camera dei miei genitori perché non volevo in qualche modo essere parte di quella massa. Senta, ma lei, tra l'altro, vogliamo dire agli ascoltatori, ha fatto e fa anche politica attivamente, è stato assessore nella giunta di Pescara, caduta poco fa, insomma, per altre vicende. Cosa pensa di questo messaggio della politica? Insomma, in fondo il Ministero ai Beni Culturali ha dato questo finanziamento, si sente in qualche modo deluso anche da una scelta che può giustificare come politica, credo questo, che la politica, le istituzioni non sono, come dire, palazzi di marmo vuoti, sono fatte dalle persone, le persone hanno sensibilità differenti, ed è un fatto che io ho potuto constatare in questi 30 anni, e francamente credo che qui, insomma, ci sia stata una enorme mancanza di sensibilità. Io francamente non conosco il ministro Bondi, che mi pare una persona sensibile, ma scrive poesie oltretutto, e qui però è stato molto carente da questo punto di vista. Non so se mal consigliato, perché magari questa storia è frutto di una semplice sciatteria, in quanto questi anni 70 per molta gente sono come, non so, il Pleistocene, cioè un'epoca lontanissima. Resta comunque il fatto che, lo ribadisco ancora una volta, che questa scelta del finanziamento pubblico mi è parsa assolutamente inopportuna, tanto quanto il patrocinio del Comune di Milano, intendiamoci. Quella è una vicenda, se si vuole, ancora più oscura, nel senso che c'è stato il patrocinio del Comune di Milano a praticamente a non far pagare le spese per tutte le scene che verranno girate a Milano. Dopodiché, quando è montata la polemica, l'assessore competente addirittura ha dichiarato: non ci ho dormito la notte, ed è stato tutto congelato. In questo lei leggo, vede anche questa decisione di, ha usato il termine, di sciatteria? E guardi, qui francamente ne sono ancora più convinto, perché avendo esperienza di giunte comunali penso che appunto non sempre si sia perfettamente consapevoli di quello che si firma. Io parlo, io cerco di leggere sempre quello che firmo, però vedo che non tutti si regolano in questo modo, e quindi lì ho idea che sia proprio una questione di sciatteria. Sentivo l'assessore che parlava del fatto che era convinto che in qualche modo ci fosse stata una specie di assenso dei parenti, una sorta di liberatoria morale, che non c'è stata. La qualcosa ovviamente non c'è stata, tanto è vero che sono sollevate in questi giorni, in queste ore, moltissime voci critiche da questo punto di vista. Da questo sì. Senta, io, avvocato Alessandrini, la ringrazio per essere stato con noi. Mi spiace se le ho fatto magari anche qualche domanda che l'hanno un po' ricatapultata in quel 29 gennaio del 79 in maniera così un po' brutale. Marco Alessandrini, lo voglio ricordare, è il figlio del giudice Emilio Alessandrini, ucciso da Sergio Seggio, non solo, da un comando di prima linea, appunto, nel 1979. Grazie per essere stato con noi. È il momento di andare al traffico, poi andremo a intervistare, insomma sarà il nostro ospite il presidente, o meglio bisognerebbe dire a questo punto l'ex presidente della provincia di Caserta, che ha fatto una scelta insolita, sicuramente abbandonare la politica, si può dire, per la fede. Le 8:48 minuti. Allora, siamo abituati magari a chi lascia la politica per la famiglia, non so, mi viene in mente Cofferati, no? Ricordate? O chi lascia la politica, anche perché è stato battuto, si usa questo termine, no? Trombato. Io voglio salutare il presidente dimissionario della provincia di Caserta, Sandro De Franciscis. Presidente, buongiorno. Lei, se dico, poi spieghiamo perché, che lascia la politica per la fede, è troppo azzardato, oppure corrisponde più o meno al vero? No, innanzitutto la ringrazio per aver chiamato. Credo di dover dire che sì, è un po' diverso, perché la fede, che è un dono, con la quale sono cresciuto, diciamo, in tutta la mia vita, sono un ragazzo di 53 anni, praticamente è sempre stata lì. E l'esperienza di Lourdes, che ho iniziato da ragazzo come barelliere dell'Unitalsi negli anni del liceo, è un'esperienza alla quale sono stato aiutato a crescere nell'accoglienza accoglienza di Lourdes, che è in sé un'esperienza assai particolare, sono certo migliaia di italiani e italiane conoscono. E allora, svegliamo il mistero, perché lei è medico, è pediatra, sì. È stato nominato da Monsignor Jacques Perrier, che è il vescovo di Tarbes-Lourdes, come nuovo medico permanente del Bureau Medical, che è l'istituzione che nel santuario di Lourdes è deputata alla raccolta e al primo esame delle segnalazioni di presunte guarigioni. Esattamente, proprio così. Cioè, quale sarà il suo compito? Diciamo che da una ventina di anni, dopo le apparizioni del 1858, il vescovo di Tarbes e Lourdes ritenne di nominare, lo fece nel 1882, un medico che formalmente fosse residente al santuario permanente per mettere ordine, per vagliare, per raffreddare quel clima di inevitabile entusiasmo che talvolta arriva fino a millantare prodigi o fatti inspiegabili. E da allora vi è stata una successione di 15 medici, tutti francesi, che hanno ricoperto questa responsabilità. Lei è il primo italiano, dunque, il primo non francese. Non francese. Cioè, che dovrà fare in concreto? Andrà, si stabilirà ovviamente a Lourdes? Io fondamentalmente ho ricevuto quattro compiti e inizio questo servizio il 1 di aprile, appunto, a Lourdes. Il primo è appunto quello di proseguire in questa attività di custodia, vaglio e verifica di fatti che singole persone ritengano di non sapersi spiegare. Il medico permanente è lì, e se ritiene che effettivamente per quello che la medicina, e qua mi soccorrerà, credo, la mia esperienza universitaria, sono un ricercatore confermato di pediatria, la mia esperienza epidemiologica e scientifica che ho acquisita e poi approfondita nei miei studi ad Harvard e così via, mi consentiranno di vagliare, come hanno fatto i miei predecessori, se vi è un qualche interesse, se vi è qualcosa che oggettivamente non risponde alle leggi e alle conoscenze odierne della medicina, convocherei il Bureau. Il Bureau è l'organismo che si costituisce di volta in volta per, da quanti medici si trovino in quel momento pro tempore all'Lourdes, credenti, non credenti, di qualunque disciplina, di qualunque nazionalità. I medici che vogliono da oltre 130 anni all'Lourdes hanno l'abitudine di lasciare con la propria firma anche la propria disponibilità ad essere eventualmente convocati negli alberghi o nei luoghi dove sono alloggiati. Il medico permanente dunque convoca il Bureau per la tale ora e presenta ai suoi colleghi e alle sue colleghe il fatto che ritiene di volere approfondire. Ed è lì, nella discussione, come si farebbe in qualunque corsia di ospedale o in qualunque momento di scambio di opinioni, che si va a discutere. Se è effettivamente reputato di un qualche interesse, poi si apre un dossier che è nella responsabilità del medico permanente, e questo dossier viene aggiornato, approfondito ed istruito nel tempo necessario, 1 o 2 anni, fino eventualmente alla sottomissione di questo dossier al Comitato Medico Internazionale, che si compone di colleghi delle, diciamo, eminenti nelle più diverse discipline provenienti dai 5 continenti, che si riunisce invece una sola volta all'anno d'abitudine a Parigi. Ma Presidente, mi scusi, poi c'è tutto l'iter, ma che parabola è quella la sua? Voglio dire, lei lascia la politica per fare il medico a Lourdes, traducendo in maniera molto, molto... Ma le devo dire questo, io la scorsa estate ho ricevuto questa affettuosa richiesta da parte del Vescovo di Lourdes che mi ha francamente turbato moltissimo, perché come ho detto Lourdes è una parte fondamentale della mia vita, che va indietro per l'appunto fino agli anni del liceo, tutti gli anni. E... la politica è una parola grossa, la passione politica, l'attenzione politica, l'impegno, l'amicizia, i percorsi costruiti con tanti e tante in questi anni, e ovviamente resta lì, e tra l'altro non vado a fare il monaco, vado a fare il medico, sia pure fisicamente a 1500 chilometri da Caserta, ma e quindi resta la passione politica e l'attenzione alla politica e l'impegno amministrativo molto duro che ho ritenuto non fosse compatibile, e dunque a poco meno di un anno dalla fine del mio mandato, e di questo mi sono scusato ieri in conferenza stampa, perché è caduta la giunta con le elettrici e con gli elettori e con quanti sostennero la mia candidatura. Io ero parlamentare in carica e mi fu chiesto di dare la disponibilità ad occuparmi della vicenda locale, cosa che abbiamo fatto. Lo faccio tra l'altro come una scelta assolutamente libera e personale, che ovviamente non entra nelle categorie della politica, non è assolutamente traducibile nelle categorie della politica, perché ho ritenuto che effettivamente questo tipo di richiesta di servizio fosse così unica che ho sentito dentro. Presidente, ho 10 secondi, ma è vero che lei da giovane voleva farsi prete, ho letto da qualche parte? No, avevo sì data una disponibilità nel 93 ad un percorso che però poi insomma fu appunto tradotto in un impegno attivo nella vita politica che ho vissuta come servizio, la mia e la generazione di Montini e del Concilio Vaticano II, ma la mia giovinezza e vita adulta è stata quella di Papa Wojtyła che chiedeva alle persone impegnate nel mondo cattolico di essere impegnate al servizio della politica per costruire la speranza alla gente. Ho provato a fare del mio meglio. Allora, io la ringrazio, a questo punto devo dire dottor Sandro De Franciscis, più che presidente, insomma si è dimesso, andrà a Lourdes, la seguiremo diciamo nei suoi passi, anche nella sua nuova attività a Lourdes. La ringrazio, con lei finiamo, i ringraziamenti anche a Laura Marchesi, Alessandro Marcotulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia, tra poco Giuliano Ferrara, parliamo con l'elefante. Si parla del fenomeno Mourinho, il fenomeno Mourinho magari anche con una trasposizione ipotetica nella politica. Noi ci ritroviamo lunedì mattina.